E naturalmente www.ondarossa.info per quanto concerne la possibilità di ascoltarci attraverso lo streaming. Disordere in onda fino alle 23 circa. Naturalmente vado a ricordare il modo principale al momento per sottoscrivere per Radio Onda Rossa, che è il conto corrente postale 618040-01 intestato al cooperativo culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56-00185, Roma. Ma nel sito stesso poi si possono trovare anche le altre modalità alternative e più elettroniche. Saluto Maya in Sardegna, come Nicola Locci, il medico della peste Alberto Clipper di MDMA. Se non erro piemontese, se la memoria non mi inganna. Sano salvo e presente. Lucia Cagliazza come Lupsi in quel di Udine. Jess Gallagher, la salutiamo. Marco Milanesio di Disordine. Laura Spirit Crusher, ben trovata e bentornata. Tabula Rasa, Flavio Derbecante di Noise Cluster, Francesco Cornello. That's De Carlo di Violet Knox, che ci sta ascoltando da Boston. Bene, andiamo ad iniziare e lo facciamo con andandoci a riascoltare altri passaggi da questo vecchio lavoro di Nove Svet, dal nome Faccia a Faccia, artista a 360 gradi, da neofolk, elettronica, atmosfere quasi jazzate, da luogo fumoso e morboso. Lui è austriaco, ma poi in realtà si esprime soprattutto in spagnolo e talvolta anche in un italiano improbabile, ma piacevole a sentirsi. Per cui ci ascoltiamo Puro Amore, Brigata Budoknost e Niños de la Bola. Amore, puro amore, puro amore, puro amore, puro amore. Oh, Ancora Novi Svet, da questo Faccia a Faccia, questo è Disorder. Particolarissimo questo Novi Svet, Jürgen Weber. Jürgen Weber insieme a Fräulein Tost, che l'altra volta non avevamo citato nella prima volta che ci siamo goduti questo Faccia a Faccia, vecchio lavoro del 1999, ristampato anche nel 2006. Album controverso e vario, che riprende in parte anche le primeve atmosfere industrial di questo artista austriaco, unendole poi a quelle successive in una bizzarra forma di folk ed elettronica, talvolta assomigliante all'EDM. Insomma, un artista veramente a, non dico a 360 gradi, ma in ogni suo disco si possono trovare varie suggestioni sonore. Altri saluti, abbiamo Moschita de Miramar, ossia Simone della Morte, in quel di Iramar, in quel di Harlem in Olanda, peraltro anche artista come Feralia Planizia, un progetto elettro molto interessante, Elettro Oscura, che ci ascolteremo presto. Sempre da fuori Italia, Mariano a Berlino. Tornando in Italia, Simone Scalise dalla Calabria con Audio Chaos. Roberto Faloci di Phantom Ship, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Jean-Claude Berthaud dalle valli valdostane. Luciano FM Genovese ci chiede i Maneskin, ma chiaramente la cosa è ironica, non so neanche chi sono sinceramente, ma lo sapevo ma ho rimosso. Noi invece si va avanti e arriviamo qui in Italia, una collaborazione molto molto interessante tra Marco Milanesio e Paola Bianchi, un'ottima voce. La collaborazione ha dato luce a Nix Subsole con Disordine e Femmina Faber, un sodalizio molto interessante, un 6 tracce diciamo di impostazione elettro goth, giusto per dare una definizione magari un po' riduttiva, ma l'oscurità c'è, l'elettronica anche, per cui non mi rimane che farvela sentire e farvi un'idea voi che state ascoltando. E ci ascoltiamo appunto Nix Subsole e Somnium Eternum. il gusto di elegantemente gotico di questa collaborazione tra Disordine e Femina Faber. Un Marco Milanesio che ci ha spiazzato e sorpreso piacevolmente, lo ricordiamo appunto con Disordine in passato, con altre sonorità. Ed è bella la scelta di collaborare con la splendida voce di Paola Bianchi. Bello anche l'uso del latino, come giustamente viene sottolineato da Mosquita de Miramar, lingua che in questo contesto è molto funzionale. Nix sub sole somnium eternum, appunto i due titoli in latino. Speriamo in una continuità di collaborazione e soprattutto in un'opera molto più lunga. E quindi salutiamo entrambi, Marco e Paola. Noi si va avanti e ci trasferiamo per un attimo dall'altra parte dell'oceano, a Boston, chiamando in causa Dez De Carlo, che vado a salutare. Lei e altri musicisti detengono il marchio Violet Knox, che abbiamo già apprezzato in passato, un progetto che mi ha ricordato per esempio certi passaggi riconducibili ai C-Feel di scuola Warping Music, quindi IDM, Ambient, eccetera. Ci ascolteremo un lavoro del 2020 dal nome Future Fast, che si apre con una traccia abbastanza lunga, la prima dal nome Cosmic Beats.